Storie italiane. La principessa incantata. C'era una volta un soldato di nome Achille. Disse addio ai suoi compagni e partì per casa sua. Dopo aver viaggiato per giorni, rimase senza soldi per comprare da mangiare per sé o per il suo cavallo. E la sua casa era ancora molto lontana. Era molto affamato e stanco quando si imbatté in un grande e bellissimo castello. Entrò nel castello, mise il cavallo nella stalla, gli diede da mangiare e andò a palazzo. In una delle stanze vi era un tavolo apparecchiato con i migliori cibi e le bevande che una persona potesse desiderare. Mangiò e bevve a più non posso, quando improvvisamente entrò un orso. Oh, non aver paura! Non sono davvero un orso terrificante! Beh, da come lo vedo, sembra che tu sia uno! Rilassati! Sono una bellissima fanciulla, una principessa incantata, si può dire! Se passerai una notte qui, il mio incantesimo sarà spezzato! Io mi dispiace, ma non penso che vorrei restare una notte in presenza di un orso! Non ti preoccupare, non ti farò del male! L'orso mostrò ad Achille il ritratto di una bella principessa. Questa sono io, la principessa Paris. Sei bellissima! Grazie! E se rimani la notte qui e mi aiuti a rompere il mio incantesimo, allora ti sposerò. Questa è la mia promessa. Mi piacerebbe averti come sposa. Va bene, resterò la notte. Grazie! Il mio nome è Achille. Grazie, Achille. Ci vediamo domani. Achille annuì e l'orso se ne andò. Stanco del suo lungo viaggio, Achille andò a dormire. Quando il sole sorse il mattino seguente, la principessa entrò. Sembrava ancora più bella del suo ritratto. Mi hai aiutato a rompere il mio incantesimo, Achille. Grazie e come promesso, voglio che ti prepari per il matrimonio. Il matrimonio fu celebrato e vissero felici e contenti. Trascorsero i giorni e ben presto Achille pensò alla sua vecchia casa e sentì il desiderio di visitarla. Per favore non andare, non sei felice qui. Mia amata, voglio davvero vedere i miei vecchi genitori, ma non preoccuparti, tornerò presto. Bene, va bene allora. Se devi andare, per favore, prendi questo sacchetto di semi. Ovunque tu vada, lancia questi semi su entrambi i lati della strada. Ovunque cadranno, gli alberi cresceranno. E da questi alberi cresceranno frutti rari e canteranno bellissimi uccelli. Tutto di te è così magico? Sono così grato di averti sposato. E io sono grata di averti incontrato. Achille le baciò la mano e poi se ne andò. Il giorno seguente, ovunque Achille andasse, gettava i semi magici e dopo di lui gli alberi si sollevavano come se strisciassero fuori dalla terra. Un giorno, nel bel mezzo di un campo aperto, vide un gruppo di uomini seduti sull'erba a giocare a carte. Accanto a loro era appeso un bollitore e anche se non c'era il fuoco sotto, la zuppa conteneva acqua bollente. Ciao ragazzi! Avete una cosa meravigliosa, un bollitore che bolla senza fuoco. Questo è impressionante, ma ho qualcosa di più meraviglioso. Prese un seme e lo gettò a terra. In un attimo un albero crebbe con frutti rari sui suoi rami e meravigliosi uccelli che cantavano intorno ad esso. Da dove ha preso quei semi magici? È solo la principessa incantata che possiede questi semi. Penso che sia lui il tipo che l'ha aiutata a rompere l'incantesimo che abbiamo gettato su di lei. Deve pagare. Sì, facciamolo dormire per 6 mesi. Achille non sapeva che quegli uomini erano i maghi che avevano incantato la principessa Paris. Gli lanciarono un incantesimo e Achille immediatamente cadde da cavallo e si addormentò profondamente. Poco dopo, la principessa Paris fu informata dal suo soldato che tutte le cime degli alberi erano secche e morte. Oh, questo non va bene. Qualcosa di brutto deve essere successo a mio marito. decise di andare a cercarlo. Passò per la stessa strada che aveva fatto Achille. E quando raggiunse un campo aperto, vide un albero meraviglioso e sotto di esso suo marito. Lei lo scosse, lo chiamò e lo pizzicò addirittura, ma lui non si mosse. La principessa Paris si arrabbiò molto e, piena di rabbia, lo maledisse. Dormiglione! Vorrei che una tempesta ti sollevasse e ti portasse via, lontano in paesi sconosciuti! Appena ebbe pronunciato queste parole, il vento iniziò a infuriare, soffiando e fischiando. Sollevò il soldato e lo portò via davanti agli occhi della principessa. La principessa fu immediatamente dispiaciuta per le sue parole, ma era troppo tardi. Oh no! Cosa ho fatto? Nel frattempo, Achille fu portato dal vento e venne gettato su un'isola. Quando aprì gli occhi, era passato mezzo anno. Si svegliò, saltò dritto in piedi e si guardò intorno. Come? Come sono finito qui? Chi mi ha portato qui? Mentre camminava lungo la spiaggia sabbiosa dell'isola, vide tre uomini che combattevano. Erano figli di un mago malvagio. Qual è il problema? Per cosa state combattendo, giovani ragazzi? Signore, vedi? Nostro padre è morto e ci ha lasciato tre cose meravigliose. Un tappeto volante, gli stivali delle sette leghe e un berretto dell'invisibilità. Ma non riusciamo a decidere chi prenderà cosa. Oh, sciocchi maghi! Fermate il combattimento. Se volete, dividerò le cose tra di voi in modo che siano tutti soddisfatti. I maghi erano d'accordo. Ora, vedete quell'albero di cocco? Quello con le sue foglie che toccano terra? Sì! Sì? Sì! Lasciate i tre doni qui, vicino a me. Correte verso quell'albero di cocco e tornate indietro. Colui che arriverà a me per primo sceglierà tra i tre doni. Chi mi raggiungerà per secondo sceglierà tra i due doni. E il terzo, bene, prenderà ciò che è rimasto. In un lampo, i tre maghi si avviarono correndo verso l'albero di cocco. Achille sorrise e prese gli stivali delle sette leghe, il berretto dell'invisibilità, si sedette sul tappeto volante e andò a cercare il suo regno. Dopo un po' di tempo, arrivò in una capanna, vi entrò e vide una vecchia signora. Buongiorno, nonna. Io sono molto affamato. Potresti darmi qualcosa da mangiare? Certamente, figliolo. Per favore, siediti. Achille si sedette e la signora mosse le mani in aria. Presto, un grande tavolo con il cibo più gustoso apparve dal nulla. Wow, tu sei una fata? Io sono un sacco di cose. Adesso stai zitto e mangia il tuo cibo. Achille mangiò il cibo a suo piacimento. E non appena ebbe finito, il tavolo scomparve magicamente. Grazie mille per il cibo. Ora, se tu potessi aiutarmi con qualcos'altro, te ne sarei grato per sempre. Achille raccontò tutto alla vecchia fata. E così, eccomi qui, alla ricerca della mia amata moglie Paris. Per favore, dimmi come trovarla. Non vi capirò mai, giovani anime. Pronto a fare tutto ciò che serve per amore? Per favore, la amo! Non è un mio problema! Per favore, per favore, per favore! Va bene, d'accordo! Chiamerò il vento e glielo chiederò! Soffia in tutto il mondo, quindi deve sapere dove vive! Uscì sotto il portico e chiamò a gran voce. Oh, vento! Vieni subito da me! All'improvviso, da tutti i lati, si levarono venti impetuosi che soffiarono così forte che la capanna tremò. Calmati, vento impetuoso, e dimmi se hai visto la bella principessa Paris da qualche parte. Sì, nonna. La bella principessa Paris vive in un nuovo regno. Suo marito è scomparso quando lei era in preda alla rabbia. Lo maledisse non sapendo che era sotto l'incantesimo dei maghi malvagi. Lei rimpiange la sua azione e ancora lo desidera ardentemente, ma adesso diversi principi e re vanno da lei ogni giorno per chiedere la sua mano in matrimonio. E quanto è lontano questo regno? Ci vorranno 30 anni per camminare fin lì, 10 anni per volare sulle ali, e se soffio posso trasportare qualcuno in appena 3 ore. Fallo. Scusami. Per favore, ho vento potente, ti prego di portarmi dalla mia principessa. Prima di tutto calmati, e in secondo luogo lo farò se mi permetterai di risiedere nel tuo regno per 3 giorni e 3 notti. Non mi interessa, puoi risiedere per 3 settimane se vuoi. Va bene allora, preparati per il viaggio, ma non aver paura, non ti farò del male. Avanti. Mi scusi? Niente, non ho detto nulla, niente di niente. All'improvviso il forte vento fischiò e soffiò. Achille fu sollevato nell'aria, oltre le montagne e i mari, proprio sotto le nuvole, e in sole 3 ore fu nel nuovo regno in cui viveva la bella principessa. Addio, giovanotto, ho pietà di te e non voglio restare nel tuo regno. Perché? Perché se comincio a muovermi, non rimarrà una casa nelle città, né un albero nei giardini, rovescerò tutto. Sono il vento potente. Un tale spettacolo. Mi scusi? Addio, forte vento potente. Grazie per ciò che hai fatto per me. Achille indossò il suo cappello invisibile e andò a palazzo. Entrò nella sala grande. Attorno al tavolo sedevano tutti i re e principi che erano venuti a corteggiare la principessa Paris. Quando uno di loro le offrì un bicchiere di diamanti come regalo, Achille colpì e colpì e lo spezzò. Tutti gli ospiti furono sorpresi. Proprio in quel momento il sacchetto di semi che lei gli aveva dato cadde dalla tasca. La principessa Paris lo riconobbe immediatamente. È qui! In estasi, diede ai suoi ospiti un indovinello da risolvere. Va bene, signori. Indovina indovinello. Avevo un meraviglioso cofanetto fatto a mano con una chiave d'oro. Avevo perso la mia chiave e non mi aspettavo di trovarla. E improvvisamente la chiave si è trovata. Chiunque risolva l'enigma sarà mio marito. Tutti i re e principi cercarono di indovinare la risposta, ma invano. Amore mio, se sei qui, vieni fuori e fatti vedere. Achille si tolse il berretto dell'invisibilità, prese le mani della principessa e le baciò. Ecco la chiave del mio indovinello. Lo scrigno sono io. E la chiave d'oro è il mio fedele marito. Chi l'avrebbe mai detto? Tutti i re e i principi si accigliarono e rimasero molto abbattuti. La principessa Paris e Achille si abbracciarono. Mi dispiace tanto, amore mio. La mia rabbia ha avuto la meglio su di me. Calmati. Il vento mi ha detto tutto. Non sono arrabbiato, ma felice di aver trovato la strada fino a te. Grazie, amore mio. Prometto di non perdere la pazienza mai più. Finché non mi spedirai su un'isola lontana, amore mio. I due erano felici di essere riuniti. La principessa Paris mandò le sue guardie a prendere i genitori di Achille per portarli al castello, in modo che potessero stare con loro. Achille ne fu molto felice e l'amò ancora di più. La principessa Paris non perse mai la calma e per quanto riguarda Achille, imparò alcuni trucchi magici da sua moglie ed era felice di usarli ogni volta che poteva.